hashtag autotrasporti. Buon pomeriggio ad Andrea Ferro, ben ritrovati all'appuntamento del lunedì qui a Radio 24 per parlare di trasporti e logistica, appuntamento nel quale ormai da mesi il racconto dell'emergenza prosegue, declinato appunto su questo comparto. Siamo dunque nella fase 2, la ripresa della manifattura e dell'edilizia per l'autotrasporto significa un aumento dei servizi e quindi del traffico di merci, chiaramente rispetto ai volumi registrati nelle scorse settimane. In termini di sicurezza per i lavoratori valgono le misure già previste dall'inizio dell'emergenza, in particolare per quanto riguarda l'edilizia. Il decreto prevede che sia garantita e rispettata la distanza di sicurezza lungo gli spostamenti, nel caso facendo ricorso ad un numero maggiore di mezzi e prevedendo ingressi e uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati. Con la fase 2 l'elenco delle attività che possono riprendere include quella svolta dai concessionari di veicoli, compresi quindi quelli industriali. Come vi raccontiamo da settimane, il mercato ha subito un autentico crollo. Il comparto dell'autotrasporto in grave sofferenza attende ulteriori misure di sostegno, misure che saranno incluse nel prossimo decreto del governo, il cosiddetto decreto aprile, slittato a maggio. Ad anticipare alcuni di questi provvedimenti è stata la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, rispondendo ad una interrogazione alla Camera, ha annunciato l'incremento di 58 milioni del Fondo Nazionale dell'Autotrasporto, la riduzione della quota parte del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria, la riduzione dei canoni concessori per gli operatori portuali e la proroga di un anno delle concessioni dei servizi portuali in scadenza. Oltre al sostegno economico, tra le richieste avanzate dalle associazioni c'è anche quella che riguarda le condizioni di lavoro degli autisti dei mezzi pesanti. Se sulle autostrade le aree di ristoro sono rimaste aperte, non così su provinciali e statali, che in molte aree del paese costituiscono infrastrutture strategiche fondamentali per l'intero sistema logistico nazionale. Può succedere quindi che per centinaia e centinaia di chilometri gli autisti non possono fermarsi magari solo per un caffè. Di qui l'iniziativa di FaiConf Trasporto, avviata d'intesa con i rappresentanti dei gestori degli impianti di carburante dei pubblici esercizi aderenti a Confcommercio. Ne parliamo con Andrea Manfron, segretario generale di Fai. Buongiorno. Buongiorno. All'inizio del lockdown vi siete battuti con successo affinché appunto sulle autostrade venisse assicurato il servizio di ristoro che in un primo tempo era stato sospeso. Da qualche settimana siete mobilitati con richieste ai vari ministeri competenti per far sì che ciò avvenga anche sulla cosiddetta viabilità ordinaria. Manfron. Non si gira solo sulle autostrade, quindi tutte sulle strade extraurbane piuttosto che sulle strade comunali e statali, evidentemente dovremmo garantire lo stesso tipo di servizio. Da qui la richiesta ai ministri affinché fosse al più presto consentita la riapertura, perlomeno per quanto riguarda l'asporto, e garantendo tutte quelle che sono le prescrizioni in termini di contenimento da Covid-19. Quindi tutte quelle che sono le necessità di sicurezza da questo punto di vista, per quelli che sono gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande lungo tutte le strade. Sarebbe un bel segnale rispetto al mondo dell'autotrasporto, ha dato e sta dando tantissimo alla comunità, ci sembrerebbe tra parentesi coerente con quello che è stato fatto nell'ultimo DPCM. Da una parte si consente a chi fa servizi di ristorazione, bar, pub, ristoranti, di fare consegna a domicilio e contemporaneamente di consentire servizio di ristorazione da asporto. Noi chiediamo che la stessa cosa venga fatta anche per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nulla di più, lungo le strade. Sarebbe un bel segnale. Ecco Manfron, come diciamo da settimane il settore è in grave sofferenza in seguito al drastico calo dei traffici determinato in questi due mesi dalla sospensione di molte attività produttive e commerciali. Ecco, come FaiConf Trasporto avete misurato, quantificato questa contrazione? Noi abbiamo fatto un'analisi generale sul territorio e io potrei dire che possiamo spenderci un calo generalizzato, poi dipende molto dalle aree e dai singoli settori, però generalizzato del 30-40%. È chiaro che se parliamo di agroalimentare è un settore che evidentemente è una filiera che ha lavorato più o meno a pieno, perché in alcuni casi, anche in quel caso lì, mi è stato raccontato, ci sono comunque dei cali rispetto ai picchi iniziali. Mentre, per esempio, l'altro caso estremo, la distribuzione di carburante nel nostro caso è praticamente, non dico azzerata, ma è veramente tritta all'uncino, perché la domanda anche in quel caso è ridotta all'uncino. Quindi direi che circa un poco più della metà dell'attività oggi è presente. L'auspicio è che evidentemente con la graduale riapertura delle attività produttive e commerciali, evidentemente anche il traffico possa risalire. Andrea Manfron, segretario generale di FaiConf Trasporto, grazie e buona giornata. Buona giornata a lei, arrivederci. Ora in Europa, al Parlamento, è iniziata la discussione in seconda lettura del primo pacchetto mobilità, che lo ricordiamo, è l'insieme di regole che a livello comunitario andranno a normare l'autotrasporto rispetto all'attuale deregulation, finora molto favorevole ai vettori dell'est. Si tratta dell'ultimo passaggio verso l'approvazione dei provvedimenti. A sollecitarla in tempi brevi sono state 16 associazioni di categoria in rappresentanza di 13 paesi che hanno presentato un documento congiunto. Non è però da escludere, anzi appare molto probabile, che per rallentare i lavori alcuni parlamentari di paesi dell'est presenteranno una raffica di emendamenti. L'altra notizia da Bruxelles è che la Commissione europea ha proposto a tutti i paesi di uniformare il riconoscimento delle proroghe di alcuni documenti, tipo patenti e revisioni, e lo ha fatto con una proposta concreta. Secondo questa proposta, la validità delle patenti e delle carte di qualificazione del conducente dovrebbe essere prorogata di 6 mesi e analogo differimento è previsto per le revisioni. Il rilancio dell'autotrasporto e della logistica non può che essere accompagnato da uno scatto in avanti sul fronte tecnologico, grazie al quale razionalizzare le risorse e i servizi e inseguire nuove opportunità di sviluppo. È un tema centrale, è chiaro, il discorso vale in generale non solo per il comparto che raccontiamo in questo programma. Ne parliamo con Antonello Fontanili, direttore di Union Trasporti. Buongiorno anche a lei. Buongiorno e buongiorno a tutti. Allora, in una recente intervista al Sole 24 Ore ha parlato di digital transformation per la logistica, in particolare per l'autotrasporto. Ecco, di che cosa si tratta? Sì, diciamo che appunto, secondo noi la digital transformation potrà portare miglioramenti in termini di efficienza, sicurezza e competitività anche al mondo dell'autotrasporto. Un mondo dell'autotrasporto che abbiamo visto proprio in questi mesi di emergenza Covid, finalmente è stato riconosciuto come un settore altamente strategico per l'intera economia italiana ma anche europea. In sequenza adesso bisogna guardare in avanti e quindi bisogna guardare a quello che la tecnologia potrà fare proprio nel mondo dell'autotrasporto, coinvolgendo i diversi elementi caratteristici del trasporto stradale, che sono il conducente, il veicolo, il carico delle merci come l'infrastruttura stradale. Quindi, pensando alla tecnologia e all'innovazione tecnologica, non possiamo appunto non considerare il futuro con l'idea appunto della guida autonoma. Se ne parla molto in termini di autoveicoli, però ci sono già dei prototipi di camion autonomi che quindi appunto potrebbero essere il futuro. Allo stesso tempo c'è il discorso della comunicazione tra veicoli, si parla molto di platooning, ovvero un raggruppamento di più camion che funziona come in un unico blocco, dove quindi appunto gli autisti che sono dietro la motrice, diciamo, di testa possono fare attività diverse perché comunque sono collegate al primo veicolo. Si prevede appunto una riduzione degli ingorghi, diminuzione delle collisioni tra i veicoli. I veicoli che sono dietro hanno appunto un maggiore risparmio di carburante. Ecco, mi fa qualche altro esempio di questa digital transformation applicata all'autotrasporto? Bisogna considerare anche il collegamento tra veicolo e infrastruttura. E abbiamo per esempio l'autostrada del Brennero, che è un case study a livello europeo per la digitalizzazione dell'infrastruttura, che potrebbe permettere ai veicoli di avere informazioni in tempo reale sullo stato del traffico, ma anche sulle infrastrutture più utilizzate dagli stessi autisti, quali parcheggi, aree di servizio e così via. Infine, parlando di veicolo, sarà importante anche il tema della telediagnosi, che consentirà appunto un controllo continuo e in tempo reale dello stato del veicolo, e quindi ci potrà essere anche una maggiore efficienza sulla manutenzione della flotta veicolare. In caso di guasto, magari appunto indicare subito qual è il problema e al limite indicare all'autista l'officina più vicina. Infine parliamo di merci, quindi di carichi per gli autisti che in questo periodo di coronavirus hanno rappresentato forse la maggiore problematica, ovvero i cosiddetti carichi a vuoto. In questo caso appunto si sta lavorando su queste piattaforme di collegamento tra domanda e offerta che permetteranno appunto sia alle imprese che devono caricare le merci, di individuare lo spedizioniere migliore, comunque più vicino, più efficiente e così via, sia agli stessi spedizionieri che magari hanno bisogno di trovare un carico da riportare indietro, di trovare in maniera molto veloce e quindi appunto per ottimizzare proprio diciamo la catena logistica. Antonello Fontanili, direttore di Union Trasporti, grazie e buona giornata. Grazie a lei, buongiorno. E quando si parla di tecnologia e sicurezza, è riferimento ormai ricorrente all'utilizzo della blockchain. Per dirla grossolanamente, parliamo di un registro digitale con dati appunto incatenati e immutabili. Blockchain e logistica, a che punto siamo? Lo abbiamo chiesto a Valeria Portale, direttrice dell'Osservatorio Blockchain del Politecnico di Milano. Da un censimento svolto dall'Osservatorio Blockchain Distributed Ledger del Politecnico di Milano è emerso che a livello internazionale le aziende più attive nel 2019 continuano ad essere le banche, seguite dalle pubbliche amministrazioni e dagli attori del mondo agroalimentare. Al terzo posto si trovano proprio gli attori logistici. Negli ultimi 4 anni questi attori hanno attivato 77 progetti a livello internazionale utilizzando queste tecnologie, con l'obiettivo di condividere maggiormente informazioni e documenti tra tutti gli attori che interagiscono nel processo di trasporto. Inoltre queste tecnologie, attraverso alcuni sensori, permettono ad esempio di raccogliere un maggior numero di informazioni, ad esempio la temperatura del trasporto. Questo fa sì che tutte queste informazioni possano essere messe a disposizione di tutti i vari attori e possano essere attivate tutta una serie di azioni collegate in modo trasparente e sicuro per tutti gli attori della filiera. In chiusura, un'altra notizia: da oggi le imprese di autotrasporto possono avviare la seconda fase dell'iter previsto per ottenere il rimborso parziale dei pedaggi pagati nel corso del 2019. La riduzione è calcolata attraverso una serie di parametri che comprendono l'ammontare pagato complessivamente, il fatturato delle aziende e la classe ambientale dei veicoli. Hashtag Autotrasporti oggi finisce qui, con questo programma noi ci risentiamo lunedì alle 13.45, vi ricordo l'appuntamento del sabato, Massimo De Donato in onda con Container, ora la linea passa al GR con gli aggiornamenti delle 14, grazie per l'attenzione, da Andrea Ferro, una buona giornata. Hashtag Autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.